Italia in controluce, la politica nel tunnel. Un saluto da Maria Piera Ceci, giornata davvero molto importante quella di oggi, come avete sentito anche nei nostri giornali radio di questa mattina. Secondo giorno infatti di consultazioni al Quirinale, secondo ed ultimo giorno di consultazioni al Quirinale, dopodiché non resta al Capo dello Stato che conferire l'incarico, presumibilmente al segretario del PD Pierluigi Bersani. Stamattina dicevamo come si è svolta, prima l'attesa sfilata dei grillini capitanati da Beppe Grillo, poi è stata la volta di PDL e Lega, ma ripercorriamola allora questa lunga mattinata e lo facciamo con la nostra Alessandra Schepisi. Sì, buongiorno Piera, davvero una lunga giornata cominciata con l'arrivo della delegazione dei 5 Stelle, Beppe Grillo, giacca, cravatta di ordinanza, occhiali scuri, è arrivato con largo anticipo a bordo della sua monovolume con i vetri oscurati, guidata dal suo autista di fiducia, con lui c'erano i capigruppo di Camera e Senato, Lombardi e Crimi, non era invece presente Casaleggio, sembra che sia a letto con l'influenza, e Grillo entrando ha solo fatto un gesto curioso, cioè il segno dei soldi con la mano, chissà, forse alla vista dei saloni del Quirinale, e uscendo non ha rilasciato dichiarazioni ai cronisti, alcuni dei quali poi lo hanno inseguito per le strade di Roma, ma il politico genovese è riuscito comunque a seminarli. A parlare invece al termine del colloquio con Napolitano sono stati due capigruppo, è stata netta e irremovibile la posizione dei 5 Stelle, che rivendicano un esecutivo tutto per sé in quanto prima forza politica del paese, un mandato pieno per realizzare i 20 punti. E, tra l'altro Beppe Grillo non ha rilasciato dichiarazioni, ma poi nel suo blog ha scritto: nessuna fiducia ad altri esecutivi, nemmeno tecnici guidati dalle foglie di fico come Grasso, e di fatto ha bruciato l'ipotesi di un mandato esplorativo al Presidente del Senato. Ma allora sentiamo cosa ha detto la capogruppo Roberta Lombardi. Finora, nonostante la dimensione del successo elettorale, non è stata data alcuna rappresentanza istituzionale al Movimento 5 Stelle, non la presidenza della Camera, non la presidenza del Senato, che sono stati oggetti di contrattazione e mercanteggiamento tra i partiti e non espressione del riconoscimento della volontà popolare. Il Movimento 5 Stelle ha chiesto quindi durante l'incontro con il Presidente della Repubblica un mandato pieno per potersi presentare in Parlamento, esporre il suo programma di governo che avete sentito e chiedere il voto di fiducia. Nel caso il Presidente della Repubblica accordi l'incarico a noi, il Movimento 5 Stelle presenterà un suo candidato alla Presidenza del Consiglio. Se questa richiesta non venisse accolta, il Movimento 5 Stelle come forza di opposizione chiederà la presidenza delle commissioni Copasir e Vigilanza RAI. Quindi no ad un governo condiviso, il governo, i grillini se lo vogliono fare loro, Alessandra? Sì, se la vogliono fare loro. E poi direi una nota curiosa è che i grillini gridano allo scandalo per quelli che definiscono mercanteggiamenti e contrattazione di cariche, ma poi rivendicano la presidenza del Copasir e della commissione di vigilanza se Napolitano non dovesse conferire loro l'incarico, dunque una posizione decisamente curiosa. Certo, è stata poi la volta, dicevamo, dopo i grillini del gruppo PDL e Lega insieme, come sappiamo sono andati appunto insieme a parlare con Napolitano. Com'è andata, Alessandra? La posizione del PDL è diversa, la posizione del PDL conferma quanto ripetuto fin dal giorno dopo le elezioni, e cioè la necessità di un governo di coalizione PD-PDL. A parlare è stato Berlusconi, che ha guidato la delegazione di PDL e Lega, ha detto: da noi c'è la totale disponibilità ad un esecutivo di larghe intese perché servono azioni urgenti per l'economia. Sentiamolo allora, Alessandra, sì. Sentiamo le parole di Berlusconi, poi le commentiamo. Abbiamo con lui esaminato i risultati elettorali che presentano tre forze, ciascuna di pari entità. Abbiamo naturalmente presente che una di queste forze non è disponibile a una collaborazione con le altre e quindi restano in campo le due forze rappresentate da noi e dal Partito Democratico, a cui incombe in questo momento la responsabilità di dare un governo al Paese. C'è tuttavia l'esigenza assoluta di un comportamento responsabile da parte delle forze che rappresentano ciascuna un terzo dell'elettorato. Non è assolutamente accettabile che sia una sola forza che con il 30% dei voti, che rappresentano poi in definitiva soltanto il 20% degli italiani che hanno diritto di voto, possa esigere di prendere tutto. Già il Presidente della Camera e il Presidente del Senato sono stati indicati come Presidente di una parte, non è assolutamente pensabile che anche per quanto riguarda il Presidente del Consiglio e il Presidente della Repubblica questa parte possa pretendere di avere tutto. Quindi noi manteniamo quanto abbiamo detto come coalizione il giorno dopo le elezioni, la nostra responsabilità è totale, siamo assolutamente a disposizione per un governo di coalizione che intervenga immediatamente con misure sull'economia che sono largamente condivise. Eccole qua, le parole dunque di Berlusconi che si dice, ribadisce di essere disponibile ad un governo PD-PDL. Che succede poi oggi pomeriggio, Alessandra? Eh sì, alle 18 il capo dello Stato riceverà il PD e questo è l'incontro più atteso, mentre è terminato da circa un'ora l'incontro con il presidente emerito Carlo Azeglio Ciampi a Palazzo Giustiniani. Poi dopodiché il capo dello Stato si prenderà probabilmente 24 ore di tempo per decidere. Il rebus, come abbiamo sentito, è molto complicato, con il PDL che corteggia il PD, con il Movimento 5 Stelle che non voterà nessuna fiducia a nessun governo e con il PD che chiede un mandato pieno, dunque vediamo, certo. Il napoletano avrà bisogno di forse di una notte per rifletterci un po' su. Grazie alla nostra Alessandra Schepisi, con cui continueremo naturalmente a seguire questa giornata politica. Dicevamo dunque che cosa può accadere a questo punto. Nel pomeriggio Bersani alle 18 sarà al Quirinale. Elisabetta Fiorito, quali sono gli scenari a questo punto che si aprono? Allora, c'è una mossa che pochissimo fa ha spiazzato Pierluigi Bersani, perché il neopresidente del Senato Piero Grasso Piera ha detto: io premier per il mio paese sono pronto a tutto, sulla nascita del governo sono ottimista per natura. Insomma, una mossa veramente Quindi Grasso inaspettata, sarebbe sì. Disponibile, invece c'è qualcun altro che dice no, sì. Sostanzialmente dice è un esercizio di fantasia, siamo al costituzionalista. Valeria Onida, presidente emerito della Consulta, dice no, io assolutamente non sarò mai capo del governo, è un possibile esercizio di fantasia. Ma il nome di Grasso in realtà sarebbe stato fatto anche da Silvio Berlusconi, che premerebbe per l'ex magistrato antimafia, facendo una coalizione PDL-PD, traghettare il paese fino alle europee del prossimo anno e magari avere il salvacondotto e l'amnistia, Piera. Certo. Ma indipendentemente da questo, Bersani, dopo questa battuta di Grasso, sale al Quirinale oggi molto più debole. Cioè già il suo tentativo era un po' un tentativo disperato, perché Giorgio Napolitano gli aveva sempre fatto la stessa richiesta: per fare un governo c'è bisogno dei numeri, e i numeri in questo caso non ci sono, la certezza assolutamente, ma nemmeno i numeri. E Bersani vorrebbe sempre un esecutivo di cambiamento, vorrebbe sempre 5 Stelle, ma riceve, e queste sono parole di Silvio Berlusconi che però sintetizzano il problema, riceve sempre la porta in faccia da Beppe Grillo. Abbiamo capito anche a che cosa punta il Movimento 5 Stelle, cioè al COPASIR, alla presidenza del COPASIR, che è l'organismo parlamentare di controllo dei servizi segreti, e alla vigilanza RAI, lì praticamente si possono controllare anche tutte le spese dell'azienda pubblica. E quindi è chiaro che al Movimento 5 Stelle fa più comodo essere all'opposizione, sì, per la loro battaglia politica. A Bersani farebbe più comodo essere al governo, ma sicuramente, probabilmente, per rispetto del risultato elettorale, Napolitano darà un incarico esplorativo a Bersani, che poi dovrà tornare al Colle e dire effettivamente quello che tutti ormai sanno, cioè che i numeri per fare il governo non ce li hanno. Grazie a Elisabetta Fiorito, che naturalmente ritroveremo nei GR del pomeriggio. Continueremo a seguire questa giornata importante dal punto di vista politico. Peraltro potete seguire i lavori anche su radio24.it. Un saluto da Maria Piera Ceci.